parlo con il nipote e vediamo cosa dice. Ma può durare questo qua, non ho capito. Ho detto, modulava. E a volte modulava col PMR, che eravamo io, se ti ricordi. Poi, la verità non... Il 27 non è che c'entrava per niente. Tanti soldati non li avevo regalati. C'è un baracchino mio, un 40 carai, li avevo regalato io. E tu me ne parlavi sempre che va questo negozio a svuotare, però... di frustare non sapevo nulla, diceva, ma se no saremmo andati a prendere. E secondo te con l'uccetto in mono non l'aveva presa la frustarella, l'ha presa la lui, ne ha preso 4. Ma l'ha Claudio la frustarella, a Pinocchetto. Sto succedendo, l'ha presa la lui, quindi figurati. Beh ragazzi, io vi saluto e ce la risentiamo. Ciao ciao a tutti. Ciao Anto, ci sentiamo, stai bene. Chi sei andato? Anto? E io. Ciao Anto, ci sentiamo. Sei nervosito, se che non è stato funzionando il microfono, ma magari qualche fesseria. Ehi, quasi già fatta, senz'altro, sì. Ma dice che la ventola, che non è il microfono. No, ma non si vedrà quando sarà un metro, non sarà più. Basta mettere un altro microfono e provarlo, vedere se il microfono. Ah, quello sì. A volte potrebbe essere il microfono, potrebbe essere una caffè, una fesseria, niente di strano. E appunto. Vabbè, che vado a... in negozio. Sentiamo dopo. A comprarti la birra, aspetta. Tornando a prendermi la Radler, l'esattezza quella limone, e poi mi piglio le pizzette. Quelle pizzette di Rusty, sai quanto sono buone, cazzo. 7 euro fa pagare, ma sono 4, ma sono veramente belle, buone, morbide, meglio di quelle di oggi. A me no, quando le metti nel fornetto, sembrano, c'è il... il formaggio che fila, sembrano quelle pizzette di una volta che vendeva Vittoria in via Tempio, tale uguale. Mi devo comprare 4 di quelle, così me le mangio. Ma non so cosa vogliamo cucinare, mi mangiavo 4 pizzette. Ma quelle quadrate, sì, quelle quadrate, già le ho viste, sono in pacchetti, ce ne sono 4, sono da 2 sotto a 2 sotto. E allora vado a cercare se ci sono, perché a volte per ordinarle è un casino, anche io le prendo per pizzeria, ma per portarli vuole 3 ore, ogni volta trovare la linea libera, qua è un casino. Guarda, qua le trovi, qui le trovi, se sali qua la... Ne hanno scritto qui, le trovi qui, le ho viste ieri sera, ce ne sono 8 pacchi, ce ne ho. Ma belle, vabbè, io ce l'avevo suggerate, la verità, le avevo comprate 3 giorni prima, però me le ho tolte dalla freezer e le ho messe nel fornetto, ti giuro, guarda che sono rimasto adibito, molto meglio quelle che quelle di Oggiano, quelle di Oggiano sembra cingomma, sono fini fini, invece queste sono grosse, alte, c'è il sugo, il formaggio che fila, poi al limite ne aggiungi, quanti posso dire, le acciughe, quello che vuoi in mezzo e ti mangi un bijou. Per 7 euro va bene, tanto mi vai in una pizzeria, di solito costano 2 euro, quindi fai 2, 4, 6, 8, sono 8 euro, invece per 7 euro dai 12 centesimi convengono quelli di Rospi, c'è la via in Napoli. No, 1,70 che cazzo delle da costa, 1,70 euro. E vabbè, sono aumentate, dai, però ancora si possono comprare. Poi a me piacciono più quelle di quelle grandi, ci credo. E infatti, io le ho provate a pranzo, la verità, non ho mai provate quelle pizzette lì. Le ho assaggiate, ma sono veramente buone. Si è mangiata anche Simona, che Simona l'altra volta ha mangiato quella di Oggiano, era dura, amico, capito? Era troppo cotta sotto, fine, c'è la pera di sugo e questo formaggio che sembra bacingò, ma ho preso e per sbaglio ho preso queste pezzette di ruspi, ma sono veramente buone. Le assaggiate oggi a pranzo, me ne ho mangiato due, figurati, ma sono veramente buone. Ho messo le, come si chiama, le acciughe, se volevo li mettevo altra roba, ma erano già filanti già così com'erano, come formaggio, erano veramente buone. Per quello che vengono me ne piglio un altro pacco, almeno quando non so cosa devo mangiare, anche a colazione, a merenda, quello che mi mangio pizzette. Ma sono surgelate a tua? No, non sono surgelate, sono del bacco frigo. Se vieni qui le trovi in fondo, prima di arrivare nel banco dove c'è il pane, capito? Dove c'è gli affettati, cose del genere, al centro, le trovi. Ma tu dove vai? Quella di Sarna Secca? Eglia, qua, quello di Costa, di Sarna Secca, sì, esatto. Da me già mi capita, perché io la banca lì a volte vado in matta e quando mi capita magari ci passo e le voglio assaggiare, perché è bello fare la portata di mano, quando non sai cosa fa, quindi di fare il pizzetto nei giorni. Mica rimane a fianco al banco dove ci sono i dolci, ci sono i dolci normali, appena a fianco, più avanti c'è quella roba lì, io l'ho presa, ma veramente buone. Adesso me le voglio riprendere, così almeno ce l'ho di riserva, quando non so cosa fare a pranzo, che voglio fare un pranzo veloce, mangio quella e sono a posto. E appunto anche la sera, magari sabato sera, che non le voglio ricucinare, la sera a lavare i piatti, i tegami, gli scritassi, prendi quella. Io prima le prendevo sotto casa, fanno le cose fritte, fanno i volti di primavera, tutta questa roba qua, no? E prendevo i calamari e le patatine, ma buoni questi calamari, non li ha più preso perché non li hanno più portati quei calamari lì, non li sta più vendendo dove li compravo, il grossista, e ne ha un altro tipo che a lui non piace, l'ha detto che per prendere i clienti lui non li fa direttamente. E stanno facendo patatine, volti di primavera, voltini di pollo, tutte queste cose qua. No, Giovanna da Oggiano prendeva i panini già pronti, si faceva portare, capito? E invece ho preferito prendere questa roba di Rusty e provarla, ma sembra già va di bene. Beh, se sono buoni va bene, però non è che costano poco, Antone, perché se tu ti fai conto, fresche costano €1,70. Costano un bel po' anche quelle. Poi ci sono quelle pizze grandi qua dall'Italy, vicino a casa, lo stesso, che costano la fesseria. E ne prendi due e mi pare che paghi 6 euro, 7 euro, ne prendi due, capito? E ci sono farcite, funghi, quanto stagioni, tutte quante ci sono. Comunque, vabbè, è per averle in casa, per non stare a non tutti riescono a telefonare, a cercare dall'idea libera, eccetera. Se no, quelle che ti fanno subito, già sono migliori, là, quelle che ti fanno, te le portano calde a casa. Comunque le pizze migliori le fanno via Grazia Deledda, via Rosello, e basta, io non ho mangiato altre pizze buone. Non prese anche quello che fa anche la Fagnini via Nurra, però me le ha portate bruciate una volta, tutte bruciate, ha detto, le ha anche telefonate, ha detto che non doveva mandare così, perché non è che non le ha viste e le ha mandate lo stesso. Ehi, aspetta un attimo, entro subito, 2 minuti. Ehi, avanti, se c'è qualcuno su 10 che vuole entrare, pareci di buco, io entrate. Ora, attenzione, al canale 10 c'è qualcuno che vuole entrare. Beh, non c'è più nessuno. Uè, non c'è nessuno? Marco? Chi sei? Lupro, ciao Marco, buonasera. No, sono Marco, sono Danilo. Ah, ciao, perdonami, ti ho confuso, avevo il volume basso, mi è sembrato Marco Condor. No, non che nessun Condor, non che i canti falconi sono diventati. A parte scherzi a parte. Però fai un controllo, per cortesia, che provo a commutare un attimino. Aspetta, metto gli occhiali. Ok, dai. Ok, dimmi come sono adesso, anche di segnale, anche se siamo vicini, vabbè che ti hai puntata da un'altra parte. Qua, allo smitter di questa parecchia sei 9,5 qua, perlomeno. Prendilo come con le pinze. Ok, invece adesso com'è? Adesso sei sceso leggermente, sei sul 9. Quindi con questa sono un pochino mezzo più alto. Yes, così sei 9,5. Dimmi una curiosità, in che punto sei tu? Così provo a girarla un pochino verso di te. Pressi stazione ferroviaria. Ok, aspetta un attimino che provo a girarla. Devo uscire fuori, un attimino, tanto è qua in terra. Sì, andare. Ok, ci sei? Positivo. Ok, dimmi la differenza da prima adesso. Guarda, a livello di segnale non è cambiato praticamente nulla. Ti sento un po' più pulito di radio. Quindi ha cambiato solamente la radio? Affermativo. Strano ma vero. No, comunque, non lo so. Ho girato appena l'antenna, e sono sceso anche di stazionarie. Ma se sono, vabbè che non è adatta per questa frequenza qua, però sono a 1,5 adesso di stazionarie. Eia, allora, precedentemente avevi un leggero soffio sotto, mentre adesso praticamente la modulazione è più pulita. Strano, vabbè, queste antenne sono miracolose. Ogni tanto c'hanno un qualcosa di diverso. Vedi, adesso sei calato lo stesso, non so cosa hai fatto. Sei sceso a 9,5 a 9. Invece adesso ho cambiato l'antenna, cioè adesso c'è la verticale. Cosa senti, sempre quel brusio? No, negativo, sei 9 adesso, 9 pieno. Mentre il passaggio precedente, quello della verifica, era 9,5. Quindi mi stai dicendo che questa è 9, aspetta che provo a commutare, e questa qua è 9,5, così mi stai dicendo? No, sostanzialmente praticamente adesso sono tutte e due uguali, non so cosa hai modificato, però prima ti ho dato 9,5 perché effettivamente le devo così, adesso non so cosa stia tu smanettando, comunque tutte e due 9, qua allo smitterino mio, dai. No, che ho cambiato, sono uscito e ho girato appena l'antenna. Magari adesso si è rigirata nuovamente perché non l'ho bloccata. L'ho lasciata mobile in balia del vento. Vedi, adesso questo passaggio è 9,5 di nuovo. Ah, magari è come gira appena il vento, ora che mi sta spostando appena l'antenna. Adesso sono quella verticale. Non lo so. Confermo anche l'ultimo passaggio, 9,5. Ok. Perfetto, allora, quindi radio sempre pulita. Sì, è scomparso quel leggerissimo soffio che avevi sotto, dai. Adesso sto usando il mic originale. Dimmi un attimino che adesso provo a cambiare veloce con l'altro microfono. Vai, siamo qua, dai. Ok, dimmi la differenza di radio. A livello di volume non c'è tanta differenza, è il suono che cambia. Questa è un attimino più nasina, l'altra è più naturale. Rumori sottofondo ne senti? Aspetta che lascio il bianco. Sì, un po'. O magari è la stufa che sta disturbando, questo... Sì, sembra QRM elettrico, roba del genere. Aspetta che proviamo a fare il bianco con l'altro, con l'originale. Andare. Invece adesso com'è? Nettamente meglio. Sicuramente l'altro amplifica un pochino di più, quindi si porta dietro un po' di rumore. Questo invece no. Ah, meglio così, dai. Quindi con l'amplificato mi porto dietro il rumore della stufa. Del riscaldamento, non la stufa, del riscaldamento. Perché c'è la ventola qua all'angolo, a fianco a me proprio, il bocchettone dell'aria, e quindi la ventola si sente bella forte anche a fianco. Sì, sicuramente cattura un po' di rumore d'ambiente, dai. Comunque a livello di suono, a mio orecchio preferisco questo, eh. L'altro si sente che è un spinge appena appena di più, però boh, c'ha questa modulazione un po', boh, chiamiamola nasina, dai. Sai, questo qua è il microfono originale della radio, invece quello di poco fa è quello da base, da tavolo, l'MC60. Boh, io ti dico quello che sento, preferisco nettamente questo. Sì, magari perché siamo vicini e quello lì è molto più amplificato e spinge a go-go, spinge forte. Invece questo qua è meno amplificato ed è più tranquillo come uscita, da. Probabilmente sarà così, dai. Vabbè, io ti parlo del mio orecchio, del mio ascolto, per cui ti sto ascoltando con l'altro parlante esterno, che è frontale, quindi ce l'ho di fronte. Niente, a livello di gusto mi piace più questo. L'altro, te l'ho detto, è leggermente un po' più amplificato, però il suono, cioè a livello di suono preferisco questo, dai. Ah, ok, dai, meglio così. Quindi l'altro lo usa quando vado a fare banda laterale, da quando vai in banda laterale, provo a usare l'altro. Eia, il segnale è sempre quello, 9.5, sino adesso non si è spostato, dai. Ok, dai, grazie allora per adesso. Faccio, provo a fare qualche chiamata fuori, ma magari mi rispondono. Andare, ok, dai, alla prossima, ciao ciao. Ok, grazie, ciao. Ahora aquí, Jordi, vamos, Jordi, aquí está copiando, Jordi, adelante. Si es que baja el sube la señal ahí, porque copia ya la temperatura. Me llegaste un excelente, pero bájate todo ahí, Jordi. No sé el comentario, está en la estación Centella, Puerto Rico. Vamos a ver si tratamos canal 8, a ver canal 8, Jordi. Canal 8, a ver si estamos ya.